5 ultima. Sì, vabbè, se non pulisco qua io escono i funghi, eh. Poi ci ho messo l'ora, se mi sono pulito la camera. Fai bene, fai bene. Oh, vabbè, risparmi, non vai campagna. Bravo, che sono al computer, sto guardando alcuni aggiornamenti. Ma non ho capito, non sei in campagna, cosa hai detto prima? Ho detto che al limite risparmi, anziché andare in campagna a raccogliere, c'è già lì. Beh, andava. Va bene, lasciamo qua, la scusa. Ciao, auguri a tutti. Altrettanto a voi.